Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Big World. Benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Ormai se ascoltate questa radio mi conoscerete, sono Elisa Elena Carollo e sono un'aspirante attrice. Sono qui, come ogni settimana, per cercare di farvi capire che il teatro non è così lontano dalle vostre vite quotidiane come può sembrare. Oggi, appunto per questo motivo, vi voglio portare un altro esempio di un monologo che è stato scritto all'inizio del Novecento, ma che anche oggi può essere considerato attuale. Di che cosa parliamo? Beh, ho preso spunto dal fatto che il 18 dicembre è la Giornata Internazionale dei Migranti, istituita dall'ONU nel 2000. Ed è un tema di cui sentiamo parlare molto spesso, purtroppo, perché ci sono molte tragedie di barconi dei migranti che tentano di raggiungere le coste del nostro paese e non sempre ci riescono, anzi, molti muoiono in mare. Ed è anche un problema perché tante persone in Italia non vogliono questi migranti. Dicono che vanno aiutati a casa loro e che per l'accoglienza stiamo spendendo troppe risorse. Io ora non voglio parlare di politica e non voglio farvi cambiare idea. Però il teatro serve appunto per mettersi nei panni delle altre persone e cercare appunto di capirle e capire quello che sentono. Quindi vorrei farvi mettere dal punto di vista di queste persone. Anche se so che ci sono parecchie questioni economiche e politiche dietro, ma non voglio parlare di questo. Si tratta soltanto di un rovesciamento di prospettiva rispetto a quello a cui siete abituati. Perché queste persone lasciano il loro paese, la loro casa e vengono qui in Italia oppure in altri posti dell'Europa per cercare una vita migliore. Due sono i motivi sostanzialmente. Uno è la povertà e l'altro la guerra. Molti vengono da zone in guerra, ad esempio la Siria, e non hanno più una casa perché sono stati costretti a scappare. Altri non vengono da zone devastate dalla guerra, però comunque non vedono prospettive per il loro futuro in patria, non vedono possibilità di avere un lavoro, di mantenere la loro famiglia, e quindi decidono di andare in Europa per cercare un lavoro migliore, anche umile, ma comunque che gli dia dei soldi per potersi mantenere, dare del cibo ai loro figli. Questa povertà, per fortuna, ora in Italia non è più così diffusa, però basta andare indietro di qualche decennio per ricordarsi che magari anche i nostri nonni o bisnonni sono emigrati, magari in America o in qualche stato europeo più ricco. Ci sono stati fatti anche diversi film sugli italiani che emigravano in America e che venivano trattati come dei pezzenti, venivano descritti con i peggiori insulti. Non è passato poi tanto tempo da quando eravamo noi gli extracomunitari, gli stranieri che venivano a rubare il lavoro o a portare la criminalità. E poi c'è l'altro motivo, la guerra, che per fortuna nel nostro paese manca da diversi decenni. E io spero proprio che non ritorni. Anzi, da questo punto di vista sono un po' una Miss Italia, perché vorrei che anche nel resto del mondo si riuscisse ad avere una situazione di pace. Non riesco veramente a mettermi nei panni di qualcuno che deve vivere quotidianamente una situazione di guerra, in cui la sua casa viene distrutta dai bombardamenti, è costretto a scappare con tutta la sua famiglia, è sempre in pericolo, non c'è un vero posto sicuro in cui rifugiarsi e anche i suoi cari sono in pericolo. Magari ha perso una madre, un padre, un fratello, una sorella, un figlio, una figlia. Per questo ho deciso di recuperare un monologo che parla della guerra dalla parte dei civili, di chi non combatte però subisce le conseguenze dei combattimenti. Si tratta di un testo teatrale di un'autrice italiana, Annie Vivanti, e che è stato scritto nel 1918, quindi pochissimo dopo la fine del primo conflitto mondiale. il nome dell'opera è Le bocche inutili. Protagonisti della vicenda sono i membri di una famiglia: il comandante Sir Harry de Bens, sua moglie Lady Mary, suo figlio Giorgio e sua figlia Lilia. Il comandante ha una posizione importante in questo esercito in guerra e anche Giorgio deve partire per andare a combattere. Sua madre e sua sorella sono ovviamente molto in pena per quello che gli potrebbe succedere, ma il comandante, il padre di Giorgio e il marito di Lady Mary le esorta a non piangere, a non fare queste scene da donne e a lasciarlo partire. Più avanti il comandante prenderà anche un'altra decisione molto difficile e abbastanza controversa sul piano familiare, perché deciderà di espellere dall'accampamento sua moglie e sua figlia Lilia per non avere delle bocche inutili in più da sfamare finché non arrivano i rifornimenti per il suo esercito. Quindi Lady Mary e sua figlia vengono lasciate nelle linee nemiche in balia della sorte. Per un po' non se ne sa più niente. Tutti credono che siano morte. Ad un certo punto Giorgio torna dal campo di battaglia. È ferito ed è rimasto cieco. Ritorna a casa sperando di trovare la madre e la sorella, ma non ci sono. Il padre è reticente e non gli vuole spiegare perché non ci sono. A questo punto, a sorpresa, si presenta sua madre, Lady Mary, e gli racconta la verità, cioè l'orribile gesto che ha compiuto suo padre, il comandante. Racconta come lei è riuscita a tornare e che cosa è successo alla povera Lilia. Abbiamo vagato tutta la notte, urlando, piangendo, incespicando nel buio su quella pianura desolata. Lilia era vicina a me, aggrappata a me. Ogni due o tre passi incespicava e cadeva. E intorno a noi erano gli altri, i vecchi, i bambini, le donne con le loro creature in braccio, e tutti urlavano nel buio come povere bestie ferite. E ogni tanto il riflettore del nemico passava su di noi, si fermava su di noi accecandoci. A un tratto Lilia è caduta nella neve. Volevo fermarmi, ma gli altri mi spingevano, mi cacciavano avanti, gridando e gemendo. Io mi battevo con loro e graffiando, mordendo, strillandomi, son fatta largo, son tornata indietro, gridando Lilia, Lilia! Un gemito mi risponde, due mani si aggrappano a me, mi chino, la afferro, la trascino avanti e comincio a nevicare. Il vento gelido ci turbina intorno e dalle linee nemiche cominciano a tirare su di noi. Allora me la carico sulle spalle e sento che per lo sforzo le vene mi scoppiano, il cuore mi si spacca. Ma avanti, la trascino avanti, con la gioia di averla salvata, col delirio di sentirla viva, viva e accanto a me. Ad un tratto un fascio di luce ci investe. Tutti i riflettori si concentrano su di noi. Affranta mi abbatto sulla neve. E quella che io porto cade, svenuta, ai miei piedi. Non era Lilia! Lilia è rimasta là, nella pianura. La neve l'avrà coperta e nascosta. Non so se sono riuscita a rendere la disperazione, l'affanno e il dolore così profondo di Lady Mary in questo monologo, perché per fortuna a me non è mai successa una situazione così drammatica. Devo dire che sono fortunata e che i miei parenti più cari sono ancora tutti con me. Spero che anche voi abbiate questa fortuna, però provate a pensare per un attimo. Magari vi è successo di essere in pena per un vostro caro, magari vostro figlio, vostra figlia, oppure un genitore, un fratello, il vostro compagno. Magari c'è stata una situazione in cui aveva avuto un incidente, oppure era malato, o non sapevate dove fosse e vi siete preoccupati, molto preoccupati, pensando a cosa potesse essergli successo. Se non vi è mai accaduto, provate a pensare a come vi sentireste in questa situazione, temendo per la vita di una persona che amate. Ecco, in guerra ci si sente così, si teme per la propria vita, ma soprattutto per quella delle persone che si amano. E quando non è timore, è il dolore per averle perse per sempre. La guerra è veramente una situazione drammatica. E io non me la sento di giudicare chi scappa da questa situazione. Penso che anch'io al loro posto scapperei e cercherei di fuggire il più lontano possibile, anche attraversando un viaggio pericoloso, ma con una speranza, una lucina fioca in fondo al tunnel che mi potesse dare la speranza di un futuro migliore. Se non per me, almeno per i miei cari. Cercherei di portare in salvo le persone che amo. Io non posso sapere come si sentono i migranti, sicuramente è una situazione così terribile che non riuscirò mai a immedesimarmi veramente. Però se ci provo, già con quel pezzettino di dolore che sento, capisco che la loro situazione è veramente estrema e non me la sento di accusarli di venire qui a rubare il lavoro agli italiani, oppure di essere mantenuti dallo Stato italiano alle spalle di noi contribuenti. Certo, questa è solo una faccia del problema. Ci sarebbero mille altri argomenti, discorsi di economia che io non sono in grado di affrontare, però anche la componente umana, secondo me, ha un peso nella questione. E spero di essere riuscita un pochino a ribaltare il vostro punto di vista, farvi capovolgere la vostra visione e farvi passare per un attimo dalla loro parte invece che vedere la situazione dal vostro solito punto di vista. Spero che abbiate trovato interessante questa puntata, anche se il tema, lo devo ammettere, era abbastanza pesante. Vi prometto che nella prossima parleremo di cose più allegre. Se vorrete seguirmi, sarò qui anche mercoledì prossimo, sempre alle 20:30 su Radio Big World. Ah, e non dimenticate di lasciare un commento sul mio blog dramaqueen.it se avete qualcosa da dire su questa puntata e ne volete discutere. Alla prossima!